Ecco noi Michele Crocchiola di Movies Inspired per parlare del film Ippocrate di Tomas Lilti in uscita in sala giovedì 7 giugno. Michele, ben trovato. Bentrovato a te e a tutti gli ascoltatori. Come lo racconteremo in breve? Ah, è facilissimo. È uno dei pochissimi film ambientati in un ospedale. Però, se ci sono all'ascolto degli ipocondriaci non si devono preoccupare perché è una storia che ha al centro Benjamin, che è un giovane tirocinante e anche figlio del primario del reparto in cui lo mandano a imparare in qualche modo il mestiere. E il film sostanzialmente racconta la sua crescita, come passa dalla teoria alla pratica, come si affrontano le responsabilità. Come si vive da tirocinante in un ospedale, per cui praticamente l'80% del suo tempo trascorre, com'è nella verità, in quello spazio, e quindi gli amori, le responsabilità, le paure, le crescite avvengono tutte all'interno di questa spazialità e conosciamo tutti i personaggi che girano intorno a questa struttura. Che magari noi conosciamo più per le serie TV, ma insomma il cinema, quando riesce a raccontarlo bene, come in questi casi, è un valore aggiunto. Emergono forti differenze di classe, c'è il figlio del primario e c'è il lavoratore proveniente dal Nord Africa che viene appena c'è un problema e sacrificato se non fosse poi per la reazione dei colleghi, che Sì, vive nella struttura l'altro. sanitaria, tra l'altro. Esatto, Abdel è l'altro, diciamo così, tirocinante, però è straniero, si dimostrerà fin da subito più competente di lui e quindi anche se in teoria, anche se un po' più grande, insomma, dovrebbero stare sullo stesso livello, cioè sono lì per imparare, Abdel, in quanto anche figura straniera e quindi in qualche modo più ricca, perché solo di esperienza, diventerà un po' il punto di riferimento di Benjamin. Sì, c'è questo doppio binario. Io in realtà sono innamorato più delle figure delle infermiere e di alcuni pazienti, cioè Sì, veramente questo sì. microcosmo che poi a un certo punto in cui tutti lavorano insieme e non è un lavoro come un altro, è un lavoro dove c'è di mezzo poi appunto la vita delle persone. E si vede anche la diversità tra l'umanità di chi si occupa faccia a faccia proprio con chi è degente e i dirigenti sanitari che invece vogliono rendere il massimo col minimo delle spese. Sì, allora, il film secondo me visto in Italia ci farà ricordare un sacco di notizie che noi poi leggiamo ogni tanto sulla sanità, sui giornali, perché affronta in modo molto realistico quelle che sono molte delle problematiche ospedaliere, dal pronto soccorso ai dirigenti, al rapporto tra primari e sottoposti, alle responsabilità e a qualche piccolo caso magari di corruzione, al problema che abbiamo anche noi in Italia della cosiddetta mala sanità. Cosa succede quando un paziente muore e nessuno sa il perché? Si va a cercare la cartella clinica di chi è la responsabilità, cosa è successo, c'è stata negligenza da parte di qualcuno, però ecco, lo fa con un tono, noi diremmo da commedia, a me piace più dire con un tono da realismo. Perché poi la vita non è solo dramma, no? Certo. C'è il momento della festa, c'è il momento appunto dell'innamoramento, c'è il momento del dramma e del panico. È molto umano. È molto umano, bravo, sì. Sì. E ovviamente, sai, il regista è medico e quindi ha messo tutta la sua esperienza in questo film. Dove l'avete incontrato, Ippocrate? L'abbiamo incontrato grazie ai suoi film più che precedenti, successivi, perché Tomas Lilti è il regista di Un medico di campagna, uscito a Natale un anno e mezzo fa, e questo è il suo film immediatamente precedente, che quando l'abbiamo visto abbiamo detto aspetta, aspetta, questo merita, secondo me, ma questo è il mio parere personale, ancora più del medico. Merita di essere visto al cinema e quindi è stato, diciamo, è stato recuperato. Ok. In quante sale sarà, Michele? Ah, guarda, questo è un periodo di grande sofferenza, ma non solo per il caldo. Dovrebbe uscire in poco meno di 20 copie, 18-20 copie. Spero che abbia una lunga vita estiva, perché poi lo svantaggio di uscire in questo periodo in cui molte zone d'Italia cinema chiudono è che comunque poi i film vanno nelle arene, hanno una vita diversa, più lunga, più ampia. Quindi invito tutti di andare a recuperarlo, magari a Roma al chiuso in questi giorni, pure se non hanno modo di tenerlo d'occhio, e secondo me da qui a settembre ci saranno, spero, occasioni per vederlo. Bene, allora ricordiamo Ippocrate di Tomas Lilti, ringraziamo Michele Crocchiola di Movies Inspired che lo distribuisce. Un abbraccio e a risentirci presto, Michele. A risentirci presto a voi e buon lavoro a tutti. Buona giornata.